madre, madre, stelle del mio cuore, il cielo mi sta chiamando, devo proprio andare. Padre, madre, datemi la benedizione, che la mia strada è lunga, lunga, lunga da attraversare. Porterò con me la nostra terra, il vostro cuore, il nostro sole, il nostro pane, la vostra voglia di vedermi tornare. Porterò con me la vostra voglia di vedermi ballare, la vostra danza, il vostro amore, la nostra voglia di un giorno migliore. Partito, mai partito, andato, ma mai andato. Lui andò verso il nord come un disperato. Sul cammino incontrò spine, molte rose nel deserto, molta sabbia, molto vento, molto di tutto, ma poco di tanto. Porterò con me la nostra terra, il vostro cuore, il nostro sole, il nostro pane, la vostra voglia di vedermi ballare. Porterò con me la vostra voglia di vedermi tornare, la vostra danza, il vostro amore, la nostra voglia di un giorno migliore. La strada si fece scura in una notte chiara, si vide bene la mano di chi lo ferì nella schiena, lo lasciarono nella steppa con una foto colore seppia, gli rubarono tutto il futuro e morì solo senza fretta. Porterò con me la nostra terra, il vostro cuore, il nostro sole, il nostro pane, la vostra voglia di vedermi tornare. Porterò con me la vostra voglia di vedermi ballare, la vostra danza, il vostro amore, la nostra voglia di un giorno migliore. Porterò con me la nostra terra, il vostro cuore, il nostro sole, il nostro pane, la vostra voglia di vedermi tornare. Porterò con me la vostra voglia di vedermi ballare, la vostra danza, il vostro amore, la nostra voglia di un giorno migliore.